Resto viene qui ma su non fare cose, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, le recitar le preghiere, amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta pena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Sette e 9, Radio Onda Rossa, sono le 16:08, inizia l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Allora, siamo qui in trasmissione con all'indomani più o meno della manifestazione che c'è stata sabato scorso, una manifestazione grossa che ha visto in piazza lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti e anche genitori probabilmente. E di carne al fuoco ce n'è tanta, oltre appunto a parlare di questa manifestazione. E c'è anche le ultime notizie che arrivano dalla discussione del decreto di stabilità, ovvero dagli emendamenti ad alcuni commi che sono stati approvati dalla quinta commissione bilancio un paio di giorni fa e che sembrano avere ritirato soprattutto la questione delle 24 ore. Su questo ovviamente la discussione è abbastanza accesa, su che significato dare a questa revisione parziale della parte che attiene alla scuola per il decreto di stabilità, ovvero se considerarla una vittoria o meno di questo movimento che comunque è nato all'interno e non solo delle scuole. E bisogna dirlo, anche sull'onda di questo paventato aumento delle ore di lezione. E su questi altri argomenti ieri c'è stata una riunione del coordinamento delle scuole al liceo Talete e soprattutto si è anche discusso della questione dello sciopero di domani, a cui comunque il coordinamento aderisce sia pure con partecipazione diversa. Sappiamo che domani ci sono più concentramenti, più appuntamenti è lo sciopero, ricordiamo, europeo, cosiddetto sciopero del Mediterraneo, perché è lo sciopero indetto un po' negli stati, indetto dalla CES, che è questa confederazione dei sindacati europei, e che dovrebbe vedere scendere in piazza appunto i lavoratori e le lavoratrici della Spagna, del Portogallo, soprattutto dell'Italia e parzialmente anche della Grecia, che parteciperà con 3 ore. Questo sciopero hanno aderito i COBAS, varie altre organizzazioni dei sindacati di base, con appuntamenti diversi, perlomeno qui a Roma, ma comunque ci sono appuntamenti in un po' in tutte le città d'Italia, e anche la CGIL per parte sua, con uno sciopero però di 4 ore. Qui a Roma, tanto per cominciare a dare gli appuntamenti, quello dei COBAS è alle 9 a Piazza della Repubblica, gli studenti universitari si vedono a Piazzale delle Scienze, gli studenti medi si vedono a Piramide, e la CGIL invece si vedrà a Piazza Bocca della Verità, con fine del corteo a Piazza Farnese. Questo, secondo me, è un'opinione mia personale, già dall'idea dell'intenzione, della volontà di partecipazione della CGIL a questo sciopero. E rimane il fatto che ieri, insomma, si è discusso molto nel coordinamento sulle modalità un po' di partecipazione a questo sciopero. Già sulla lista del coordinamento si era parlato, e nel comunicato stampa, che io ho trovato, insomma, abbastanza frettoloso personalmente, è un'opinione personale, rispetto alla manifestazione, si era parlato di un appello per una mobilitazione unica, un corteo unico, e su questo io credo, ed è stato detto anche da qualcuno e da qualcuna ieri all'assemblea del coordinamento, ci sarebbe da fare un pochino di chiarezza, anche perché non è indifferente su quali parole d'ordine si scende in piazza, quella è la caratterizzazione del modo in cui ognuna e ognuno scende in piazza. Quindi secondo me andare in piazza domani con la CGIL sembrerà superfluo che da questa radio si dica questo, ma questa era un po' la discussione anche di ieri, anche se nessuno ha detto, a parte un sindacalista della CGIL, andare in piazza uniti o meno uniti sono poi le parole d'ordine che porti in piazza, che ti caratterizzano, e rispetto alla CGIL anche, non solo alla CISL, alla UIL e tutti gli altri sindacati che operano dentro la scuola, è sotto gli occhi di tutte e tutti qual è stata la politica di questi sindacati negli ultimi anni, soprattutto conseguentemente alla smantellamento della scuola pubblica, che giova sempre ripetere non è uno smantellamento che è stato iniziato dai governi di centrodestra, ma è stato iniziato proprio dai governi di centrosinistra con la riforma Berlinguer, non solo nella scuola ma anche e soprattutto nell'università. E quindi, insomma, per quello che mi riguarda, credo che la cosa fondamentale sia comunque scendere in piazza, perché mandare appelli a 24 ore dalla mobilitazione per una manifestazione unitaria mi sembra poco significativo. Di fatto, dal coordinamento comunque e sul comunicato che è uscito oggi rispetto all'assemblea di ieri, comunque si dà l'indicazione certamente di partecipare, ma questo già si era detto nei giorni scorsi, e la cosa importante è che comunque ci sarà poi un appuntamento finale a Piazza Montecitorio, dove la piazza è autorizzata ma non si potrà arrivare in corteo. Insomma, quindi si prevede che domani sarà comunque una giornata importante. Quello che era fondamentale, che in molti interventi è stato detto, è che comunque questa lotta della scuola non ha senso se rimane una lotta soltanto della scuola. Qualcuno ha detto: noi siamo i primi perché siamo più deboli. E a me non mi sembra che siamo proprio i primi, però insomma comunque l'attacco che c'è stato alla scuola pubblica in quest'ultimo, alla scuola statale in quest'ultimo periodo, certamente evidenzia bene quella che è la strategia governativa e padronale, lo smantellamento della contrattazione collettiva, l'aumento dell'orario di lavoro e via così discorrendo. Riprendiamo anche insomma, ricordiamoci anche appunto che l'attacco alla scuola non è cominciato ovviamente con il DL stabilità e la proposta di portare a 24 ore l'insegnamento, cioè le ore di lavoro degli insegnanti, ma appunto ha una storia molto più lunga. Le ore di lezione. Non so che hai ho detto di lavoro. Le ore di lavoro, sì. E, le ore di lezione, però non inizia certo da qui, appunto, per quanto ci riguarda, inizia almeno dalla legge sull'autonomia di Berlinguer, ma ricordiamo almeno gli ultimi atti, e cioè la legge 133 del 2008, quella di Brunetta, e la finanziaria di quell'anno di Tremonti, che sono insomma in qualche modo la vera riforma della scuola. Più volte si parlò di controriforma Gelmini, ma anche di riforma Gelmini Tremonti Brunetta, perché sostanzialmente si è trattato di un enorme taglio ai fondi per la scuola e di un licenziamento di massa sostanzialmente di precari e precarie, che sia tra il personale docente che tra il personale non docente hanno perso il posto in quegli anni. E si continua però con iniziative di legge che continuano insomma a far perdere il posto di lavoro a molti lavoratori e lavoratrici. E detto questo, insomma, vorrei ritornare solo un attimo sulla manifestazione di sabato per dire che è stata una grande manifestazione, perché è stata una manifestazione costruita dal basso e autogestita. Io non lo so, ma erano sicuramente tanti anni che questo non succedeva nella scuola, e quindi questo io lo vorrei sottolineare, cioè è nato da assemblee che sono partite prima nelle singole scuole, poi in un coordinamento cittadino, che ha visto insieme tutti gli attori e le attrici della scuola statale, a partire appunto da coloro per cui la scuola è costruita, cioè gli studenti e le studentesse, e tutti coloro che lavorano poi nella scuola. Che poi va detto anche, no, che rispetto a questa cosa che hai giustamente sottolineato, cioè del fatto che questa manifestazione veramente è nata senza nessun appoggio da nessuna parte, né di strutture, se non formalmente, proprio, che ne so, per la stampa dei manifesti o meno, e dà la dimostrazione che l'auto-organizzazione comunque è qualcosa che poi paga e soprattutto fa crescere nel momento che si mette in campo e riesce a mettere in piedi mobilitazioni e lotte. Per cui fa specie che poi, dopo una mobilitazione di questo genere, con questi presupposti, si torni a chiedere, a spingere, come era nel comunicato post manifestazione, i sindacati per non si sa che cosa. Cioè, quando tu hai capitalizzato già un risultato così importante sulla base dell'auto-organizzazione di lavoratori e lavoratrici e anche dei studenti e studentesse, poi non si capisce perché devi chiedere a non si sa bene chi di fare nemmeno si sa bene cosa. Dovresti continuare su questa strada, perché questa strada evidentemente è quella che paga e che fa crescere, che rifiuta appunto quello che è il criterio imperante, che è quello della delega. Qualcuno ci penserà, i sindacati ci stanno per questo, io perché devo scioperare, vanno loro a trattare, e fino adesso con che risultati? Un'altra considerazione è quella su che valutazione dare di questa presunta vittoria. Cioè, qualcuno ieri all'assemblea diceva giustamente: dobbiamo essere contenti perché non ci fanno lavorare 24 ore, ma noi non lavoravamo 24, cioè non insegnavamo 24 ore. Sarebbe come dire che gli operai sono contenti perché non li fanno lavorare 50 ore a settimana, insomma, non è assolutamente questo. Del resto, pure da questi microfoni l'avevamo detto più di una volta che per noi era anche probabile che questa cosa rientrasse, che era stata fatta ad arte. Io vorrei poi, se qualcuno appunto vuole prendere la parola, specificare insomma quali sono poi i tagli che si andranno a fare e che significato hanno, perché non si possono più fare i tagli che avrebbe comportato l'aumento delle ore di lezione di un terzo, e quindi con ovviamente una grandissima diminuzione del personale impiegato. Sì, per quanto riguarda i tagli, per quello che si sa ad oggi, perché forse è opportuno ricordare che negli emendamenti proposti è prevista anche una clausola di salvaguardia fino al 31 gennaio 2013, che dà la possibilità comunque di ripensare questo impianto che è stato proposto. Però per quello che diciamo si sa ad oggi, noi abbiamo 1,8 milioni dal taglio dei distacchi sindacali sindacali e dei comandi dei docenti del personale scolastico al Ministero e ad altri enti, conseguentemente appunto il taglio dei distacchi e il taglio dei comandi dei docenti, che evidentemente porterà come ricaduta il taglio di posti su cui lavorano docenti precari attualmente, in una misura che io non mi sento di valutare in questo momento, ma che ritengo sia abbastanza sostanziosa. Una cosa che a mio avviso è realmente stupefacente, cioè 6 milioni dalla dismissione dell'immobile di Piazzale Kennedy a Roma, utilizzato come sede del Ministero dell'Università prima dell'accorpamento col Ministero dell'Istruzione, e la dismissione del relativo canone di affitto, che obiettivamente è una cifra imponente per un immobile che nel dibattito che si è svolto in commissione bilancio il ministro ha affermato essere utilizzato solo al 40%, mi pare, e la trovo una cosa in assoluto stupefacente. Dopodiché c'è un capitolo, diciamo, più doloroso, che è prima di tutto i 47 milioni e mezzo di taglio dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, senza pregiudizio per la qualità dell'offerta formativa, il che mi sembra un bizantinismo assolutamente inaccettabile proprio. Che a parità di progetti vengono pagati di meno. Sì, ma fondamentalmente appunto è solo questo, quello che veniva erogato per magari per, cioè non è che ti dicono fai meno progetti, se vuoi puoi fare pure 80.000, ma io ti do meno soldi comunque. Sì, adesso indipendentemente da come questa cosa si valuti, perché personalmente io non ho una particolare affezione per la didattica progettuale, anzi al contrario, però comunque questo corrisponde nei fatti a una diminuzione a livello di stipendio, di soldi ricevuti dagli insegnanti, perché è chiaro che nel momento in cui io sono tenuto a dare lo stesso servizio, chiamiamolo così, a fare lo stesso progetto a diciamo con una retribuzione inferiore, è evidente che questo accade. E dopodiché ci sono 20 milioni di tagli ai fondi di ricerca, e in particolar modo al FIRB e al PRIN, che almeno dal mio punto di vista è un capitolo particolarmente doloroso, in particolar modo per quanto riguarda il FIRB, che è il finanziamento per la ricerca italiana di base, nello specifico destinato nella maggior parte a giovani ricercatori non ancora strutturati, ed è interessante andare a leggere quali fossero gli obiettivi, almeno fino a che è stato finanziato, di questo programma di ricerca, perché prevedeva il ricambio generazionale all'interno delle università, il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche nazionali. Ed è particolarmente doloroso per tutti quelli, e sono tanti, che lavorano di precariato durissimo all'interno delle università e all'interno degli enti di ricerca. E dopodiché, ultimi capitoli, sono 30 milioni di tagli sul progetto Smart City nel centro nord, di cui io poco abbiamo da dire, insomma, su questo su cui personalmente ho poco da dire, e ulteriori maggiori risorse da un fondo alimentato nel passato dagli accantonamenti di risorse raccolti con vecchi tagli, per cui diciamo un fondo accantonato che evidentemente non si era ritenuto di dover usare nel momento in cui si era ritenuto possibile portare gli insegnanti italiani a 24 ore di insegnamento, a 24 ore di lezione. Il panorama che complessivamente ne deriva su quelli che sono gli aspetti sostanziali di questi tagli, quindi 47 milioni e mezzo che vengono a depauperare il FIS e i 20 milioni di tagli per la ricerca, sinceramente è il panorama di una scuola che continua a subire la mannaia dei tagli fatti e portati avanti secondo criteri assolutamente di emergenza in qualche misura. Poi c'è già stato negli anni precedenti con Gelmini le cattedre che sono state portate tutte a 18 ore, la revisione dei programmi, per cui per esempio al ginnasio del liceo classico c'è sta geostoria che... Al biennio di tutti i licei. Al biennio di tutti i licei, sì, queste sono... Sì, infatti, cioè la riforma Gelmini ha corrisposto da una parte a una perdita e un taglio di posti, evidentemente a danno dei precari, ma corrisposto dall'altro lato a una sorta di reimpianto di quelli che sono i criteri di insegnamento e quello che è, diciamo, l'offerta formativa delle scuole, che ha penalizzato in maniera molto forte alcuni tipi di discipline, in particolar modo, forse perché è la mia area di appartenenza, discipline di area umanistica, per cui addirittura negli licei sono state tagliate le ore di insegnamento dell'italiano e il latino, per esempio, è completamente scomparso da alcuni ordini di scuola ed è stato ridotto quasi a nulla nel liceo scientifico, e questo evidentemente dà un profilo di scuola, anche di scuola di istruzione superiore, che dovrebbe essere, secondo quest'ottica, la scuola di punta, comunque assolutamente depauperato. Sì, poi sempre su questa cosa dei tagli della Gelmini, che è stato soprattutto il taglio al diritto allo studio sostanzialmente, oltre alla conseguenza perdita dei posti di lavoro, vorrei ricordare appunto che una delle materie più massacrate, e non credo sia un caso, è stata storia. Ma gli ordini di scuola, non gli ordini, le tipologie di scuola che in assoluto hanno sofferto di più per quella riforma sono stati proprio in scala classista, più di tutti i professionali, a seguire i tecnici, poi gli altri licei. Quello che ha subito meno in assoluto è stato il classico, anche questo. Anche i tagli che ha subito il classico sono stati tagli del tutto assurdi, si taglia italiano al biennio del classico, eccetera. Però ricordo che nei professionali che erano a 42 ore settimanali sono stati portati a 32, con un taglio trasversale senza nemmeno decidere di che materia si andava a tagliare. Solo là dove non c'erano i professori già assunti in ruolo è stato tagliato. Quindi soltanto per far cassa, insomma. Un taglio trasversale e immediato, peraltro, perché nei tecnici e nei professionali il taglio è avvenuto immediatamente nell'anno di ingresso della riforma, senza aspettare che andasse a regime con le classi che entravano. E personalmente trovo che non sia un caso che oggi si insiste e si continui a insistere a livello propagandistico, in qualche modo anche di organi di comunicazione, su la necessità di ritrovare l'importanza e la possibilità di sbocchi professionali nell'istruzione professionale, appunto, per le giovani generazioni. E questo è un tasto su cui si batte spesso, e obiettivamente è chiaro che porta poi a un allontanamento dal mondo della cultura e del pensiero critico da parte di molti ragazzi, per come sono state ridotte queste scuole. Farei una breve pausa musicale, visto che siamo a metà della trasmissione. Vi ricordo che questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, i microfoni sono quelli di Radio Onda Rossa, per chi si fosse, collegato casualmente. Abbiamo il numero di telefono, ci farebbe molto piacere sentire anche l'opinione di chi ci ascolta, 06 49 17 50. Yes, sir. Torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa, sempre a parlare di scuola. Il telefono, ve lo ripetiamo ancora una volta, è lo 06 49 17 50. Stiamo parlando dei tagli sotto la cui mannaia ancora una volta la scuola, e non solo la scuola, perché insomma noi parliamo di scuola, ma i tagli sono per la sanità e per i servizi in generale. E come dire, uno dei progetti che pare essere venuto non in mente al ministro Profumo, ma aver preso in considerazione il ministro Profumo, perché la proposta in realtà è del PD, del Partito Democratico, uno dei, degli elementi potrebbe essere quello di tagliare un anno di scuola alle superiori, cioè di far durare il corso di studi superiori 4 anni e non 5. Pare che questo, come dire, piaccia molto negli ambiti ministeriali, perché si risparmierebbero 3 miliardi, quindi un bottino niente male, insomma, per chi la pensa in questo modo, insomma, per chi vede la scuola come una borsa da cui togliere denari e denari e denari, perché insomma, in sostanza, che queste 24 ore siano del tutto scomparse, cosa che io aspetterei che davvero siano scomparse prima di dirlo, o meno la questione rimane sempre la stessa, cioè che c'è un governo italiano, ci sono dei governi europei che concepiscono sostanzialmente tutto quello che è lo stato sociale come una perdita di soldi che quindi va in qualche modo recuperata, raggranellata, e ovviamente poi in questo paese non si parla di patrimoniale, non si parla di niente che non sia togliere, aumentare tasse e togliere appunto i servizi. La scuola è uno dei campi proprio dove questo esercizio è più sbracato, insomma, più evidente, un po' come la sanità. Sì, poi sull'onda di quello a cui ci ha abituato Berlusconi, qui lo dico e qui lo nego, cioè l'abitudine di dire delle cose e poi rimangiarsele, eccetera, e anche Monti procede nella stessa direzione, parla di patrimoniale, poi se la rimangia, eccetera, eccetera. Tutta questa politica comunque, se guardiamo per esempio alla Grecia, non andrà da nessuna parte, nemmeno nella logica capitalista e cosiddetta democratica. In Grecia è stato approvato in Parlamento questo nuovo pacchetto per tagli per 13 miliardi e mezzo di euro, ma l'Unione Europea, la Troica, insomma, Fondo Monetario, Unione Europea e Banca Europea hanno già fatto sapere che comunque non ci stanno i greci nelle transenne economiche tracciate appunto dall'Europa, perché ovviamente sono tutte misure che comunque non fanno che provocare recessione, disoccupazione e quindi calo del gettito fiscale, al di là della questione degli evasori, e quindi già si preannunciano manovre per altri 30 miliardi, quindi è una strada che evidentemente è una strada senza uscita, non è una strada, come loro dicono, per il risanamento, è una strada soltanto che tende intanto a rastrellare dalla maggioranza della gente che lavora in modo dipendente più soldi possibile, ma è comunque una strada che mira soprattutto a un controllo totale sul mondo del lavoro. Fra l'altro, giova ricordare che mentre con queste varie operazioni, fra le quali che dovrebbero andare a compensare il minore gettito derivato dal non portare a 24 le ore di lezione dei docenti delle medie superiori, c'è anche la cassazione, la sparizione di due commi del decreto di stabilità, di cui uno era quello del fondo per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, che era anche legato a iniziative nazionali di concerto con le amministrazioni locali per